got to give a little. Indovina chi viene a cena? Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, e non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata da Valentina Furlanetto, benvenuti a questo spazio di Radio 24 dedicato alla cucina e alla migrazione. I pregiudizi a tavola come nella vita vanno superati e noi ne parliamo con alcuni ospiti italiani di origini straniere. Parliamo di cucina e della cucina del mondo proprio nei giorni in cui a Milano inizia l'Expo e visto che Expo è dedicato proprio all'alimentazione terremo da questa puntata alle prossime sempre un occhio aperto sulle varie realtà di Expo, ma questa sera noi andiamo a Cuba. Barack Obama intende rimuovere Cuba dalla lista dei paesi sostenitori del terrorismo. La decisione del presidente statunitense è stata resa nota pochi giorni dopo l'incontro con l'omologo cubano Raúl Castro al vertice delle Americhe a Panama, il primo faccia a faccia tra leader dei due paesi dal 1961. Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. In the most significant changes in our policy in more than 50 years. We will end an outdated approach that for decades has failed to advance our interests. Insomma, lo state ascoltando, Barack Obama, l'avete sentito la notizia dei radiogiornali che davano appunto questo allentamento nelle relazioni, le tensioni fra Stati Uniti e Cuba, un evento storico che anche noi Radio 24 abbiamo seguito. Adesso sentite sotto Raúl Castro. Una conversazione telefonica. Que sostuve ayer con el presidente Barack Obama, se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones. Allora diamo il benvenuto alla nostra ospite italiana di origini cubane, Gira del Carmen Betancourt, buonasera. Buonasera a voi. Grazie per essere tornata, indovina chi viene a cena, perché lei è già stata nostra ospite qualche tempo fa, è un'imprenditrice di origini cubane che ha avuto un grande successo e è stata anche premiata qualche anno fa con il MoneyGram Awards, il premio dell'imprenditoria immigrata in Italia. Sì. L'Expo quest'anno in Italia parla di cibo, di alimentazione, alimentazione sostenibile, c'è un padiglione di Cuba. Gira, lei ha intenzione di venire a Milano a visitarlo? Mi piacerebbe, purtroppo mi sarà un po' impossibile andarci. Allora, per tutti quelli che riusciranno invece a essere a Milano, il padiglione di Cuba parlerà ovviamente dei prodotti dell'isola, il caffè, il cacao, il ron, no? Gira. Sì. Ci sono anche delle sperimentazioni sul cacao, no? Di questo parlerà proprio la stazione di ricerca all'interno di Expo. Si cerca adesso di produrre del cacao con ibridi resistenti resistenti alle epidemie, perché chiaramente se la pianta è più resistente si riesce ad avere una maggiore produzione. Questo potrebbe anche portare un vantaggio per la popolazione cubana, che assolutamente. Di tutti questi gusti e profumi che abbiamo detto, lei avrà delle nostalgie. So che ci ha portato un piatto questa sera a cena. Sì, ho portato un piatto. Allora, è il pollo, no? Creollo, no? Io direi così, è il pollo con il peperone, le cipolle, diciamo tutti gli odori, e dopodiché si fa soffriggere. E questo, dopo che si è soffritto, si mette da parte, poi si prende il riso bianco normale a gusto, si fa anche questo soffriggere dentro di questo pollo con tutti gli odori, e poi piano piano si aggiunge l'acqua a misura. Questa cucina creola, no? Quali sono gli ingredienti più importanti? Perché voi fate tante cose in questa maniera. Allora l'ingrediente più importante, diciamo che è il riso prima di tutto. Qui praticamente ogni al mondo si compara come al pane. Io direi di non direi che un piatto a sé. Poi ci stanno tutti gli odori, poi ci sono i fagioli e poi ci sono le carni. Quindi tutto questo si possono fare combinati con degli odori, fare praticamente con i tempi diversi. La cottura è molto lenta e un po' lunga. Gira, ma lei riesce a riprodurre questi gusti anche in Italia? Roma cucina cubana? Sì, come no, non lo faccio sempre, però ogni tanto sì, volentieri, se vanno i posti, per esempio al mercato di Piazza Vittorio, lì vicino al mercato Piazza Vittorio, c'è un altro nome, comunque tu ritrovi anche in altri punti di Roma tante cose che puoi riprodurre il tuo cibo. Secondo me è un modo anche della dose, di quello che metti, no? Qualche volta c'è delle piccole differenze, però devo dire che con questa globalizzazione, già degli anni che io vivo qui, in questi ultimi 5 anni, devo dire che si avvicina così tanto che la nostalgia è quasi fine, è una cosa che non la senti molto su questo senso dei sapori, dei gusti che lei diceva. Ma le fa le patatine fritte con le banane? Sì, questo veramente lo faccio quasi sempre, una golosità incredibile, veramente mi dimenticavo di questo, è buonissimo, le banane, no? Le banane fritte, quelle, sì, rondelle. Le banane plantè, come dicevo. Che poi in realtà è il platano, non è la banana. Il platano, sì, questo si può fare fritto. Mira, casualmente ieri ho fatto, neanche farlo apposta, ho fatto un fufu che è come un purè di patata, per farci capire. E l'ho fatto con un po' di olio, sale e basta, e un pizzico di zucchero. Allora, alla fine della nostra puntata daremo proprio qualche indicazione sugli ingredienti e i piatti della cucina cubana. Dobbiamo fermarci un attimo, ma torniamo con lei tra pochissimo. Ci siamo. Ci siamo. Expo apri i battenti. E Radio 24 c'è. Radio 24 c'è. Con una programmazione tutta dedicata all'evento più atteso dell'anno. Dal 30 aprile al 3 maggio vivremo insieme tutta l'emozione di Expo. Appuntamenti speciali, collegamenti, dirette, interviste e la redazione sempre presente sul campo. Expo sta arrivando. Noi siamo pronti. Noi siamo pronti. E tu? La passione si sente. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Con Gira del Carmen Betancourt, imprenditrice di origini cubane in Italia ormai da molti anni. Quando è arrivata in Italia, signora Gira, si aspettava che le cose nella sua isola sarebbero cambiate tanto? Ovviamente stiamo parlando di questo storico faccia a faccia tra Raul Castro e Barack Obama lo scorso 12 aprile a Panama, a margine del summit, il settimo summit delle Americhe, e poi questo avvio della normalizzazione dei rapporti fra Stati Uniti e Cuba che è stata annunciata il 17 dicembre scorso. Lei se l'aspettava? No, veramente no, pensavo che ancora se volevo un po' di tempo, però devo dire che già c'erano i segnali per questo avvenimento così importante, sa? Quando già Obama e Raul Castro ci hanno dato la mano quando c'era il funerale di Mandela, quindi già questo era un segnale evidente, quindi le trattative sicuramente che c'erano. Dopo di un anno esattamente, a dicembre, che se ne ha parlato, no? E poi in questa cumbre dei paesi americani ha coronato questo sogno. Senta, lei che è andata via ormai quanti anni fa? Ufficialmente 93, perché già nel 91 avevo vinto una borsa di studio per l'Accademia di Belle Arti di Via Ripetta qui a Roma, però ufficialmente qui dal 93. Quindi più di 20 anni. Sì, assolutamente, ormai sono romana. Ma torna a Cuba spesso? Sì, ogni tanto ci vado. Sì, l'ultima volta quando è stata? L'ultima volta è stato un anno fa. E c'era questo sentore di cambiamento, questa prospettiva? Sì, già i cambiamenti più che politici, ho visto i cambiamenti sociali. Però il cambiamento già l'ho visto, già proprio in che una cosa sociale, per esempio nell'uso dei cellulari, che se sembra qui è normale, però per l'uso dei cellulari, i negozi, le piccole cose, la gente era più, come si può dire, più tranquilla, nel senso che c'è una aspettativa. Io penso che almeno nel mio paese, io le dico alle persone cubane che sono ingegneri della vita, no? Perché ogni cosa fanno la sua fortuna, ecco. Sempre un sorriso, una di disponibilità, indipendentemente di contrattempi, delle difficoltà. In che maniera l'embargo ha schiacciato il suo paese? A Cuba questo è stato un duro colpo, perché non avere scambio economici apertamente era un problema, però devo puntualizzare che ci sono stati paesi come il Canada, ad esempio, che sempre ha fatto degli aiuti senza nessun tipo di problema. Poi anche dobbiamo ricordare che anche l'Italia, perché mi ricordo tanti anni fa quando appartenevo all'Associazione Italia-Cuba, facciamo tanta raccolta, tante cose, l'Italia è stato anche uno dei paesi qua in Europa che ha portato tanto, e ancora oggi comunque. E quindi voglio dire, per concludere, forse spero di aver risposto alla sua domanda, penso che tutte le difficoltà per un paese così ingegnere della vita come Cuba ha servito per tantissime cose, anche unito in un senso anche molto positivo, anche molte famiglie. Signora Gira, Betancourt sarà a Cuba tra l'altro a settembre, ha accettato l'invito delle autorità dei Vescovi e così ha abbinato la tappa cubana al viaggio negli Stati Uniti che era già previsto. Questa mediazione anche del Vaticano, del Papa, che peso ha avuto e la Chiesa a Cuba come viene percepita? Però comunque la Chiesa, devo dire che questa è una cosa da riconoscere, sempre sono state aperte però. Chi? E questa fede ce l'aveva, ci andava in chiesa, perché io qualche volta ci andavo. Veniamo a lei. Lei è venuta in Italia più di 20 anni fa e ha intrapreso un cammino per diventare imprenditrice. Ha conseguito il MoneyGram Award per l'innovazione perché ha anche creato e confezionato abiti partendo da materiali alternativi come la plastica, la carta. Eh sì, come materiale anche molto cosiddetti poveri. Io, per me tutti i materiali hanno la sua importanza e il suo valore. L'importante è amarli, vederli con gli occhi di materiale che possono essere riusati. Soprattutto anche i vestiti che uno c'ha nell'armadio, come lei sicuramente che ci avrà, o come uno le dice, il vestito più buono, no? Ormai adesso non si usa molto, però per dire il senso, no? Non lo metterai mai, però se puoi prendere, che ne so, il corpetto e lo fai una borsetta, no? Per dire. Insomma, penso che riciclare, magari chi in che questa parola le sembra un po' brutta, però devo dire che tutto si può reusare e rifare nuovo con le tinta, con le applicazioni, con dei bottoni. È un problema anche di volontà, penso. Ci fa un esempio di qualcosa che ha fatto con la carta o con la plastica? Allora, con la carta ho fatto dei corpetti, no? Usando di fodera il tessuto. E poi praticamente lo stesso concetto di fare senza l'adesivo, ovviamente adesivando soltanto il tessuto per dare rigidità, io ho fatto anche delle borse. Penso che tutte queste cose si possono applicare, poi basta il concetto, sia per un giorno, sia per mostrarlo soltanto su un manichino, sia indossarlo. Poi sempre penso che per indossare un abito, qualsiasi sia questo, poi è un gusto personale, si deve vedere anche se non fa male alla pelle, tenere questa cordialità. Poi un'altra cosa che mi diverte molto è fare vestiti con le cravatte. 2 anni fa, Alta Moda Alta Roma, dell'Accademia dei Sartori, che sono parte di questa accademia, si è fatto questa sfilata collettiva dell'Accademia appunto di Sarti e si presentai questo abito fatto delle cravatte. Nella parte della gonna, poi adesso ancora faccio queste cose e molti clienti lo chiedono anche come accessori, un piccolo punto. Mujer de malos sentimientos. Italia è italiana, Cuba è Cuba, però nel fondo, da tanti anni che vivo qui, alla mia esperienza, per certi versi sono uguali. Cucina tipica cubana, che unisce nella preparazione caratteristiche indiane, africane e spagnole, viene anche definita cucina creola. Un tipico esempio è il pollo alla creola, che viene preparato con un tipico soffritto di aglio, cipolle e vino. Ovviamente, come la carne, anche il pesce e i crostacei prevedono gustose preparazioni alla creola, come i gamberi in salsa di pomodoro o l'aragosta in purea di pomodori. Il piatto tradizionale è una minestra mista con banane, patate, mais, carne di pollo e di manzo, oppure carne secca, chiamata ajiaca. Altra specialità immancabile da provare è il fufu, un purè di banane condito con aglio e olio. La carne e i fagioli sono dirette eredità della cucina spagnola, mentre l'uso del riso è legato all'influsso degli immigrati cinesi. Uno dei prodotti tipici è la manioca o yuca, che viene coltivata in diverse zone tropicali del mondo. È una pianta alta un paio di metri, le cui radici raggiungono facilmente dimensioni superiori al metro. È proprio con la yuca che vengono cucinati i vari dessert casalinghi, che sono per lo più composti da frutta, mango e papaya o ananas e lime. La banana viene usata in due differenti maniere. La prima come frutto, come siamo abituati a mangiarla anche noi occidentali. La seconda invece la vede alla stregua della verdura, quindi cotta allo stesso modo prima di venir consumata. Da provare anche le chicarritas, delle banane fritte al sapore di patatine fritte. Tra i dolci vale la pena di menzionare il coquito acaramelado, cocco caramellato, e il boniatillo, realizzato con bucce d'arancia, sciroppo di canna da zucchero, cannella e delle patate mescolate con dell'acqua. La bevanda cubana per eccellenza è sicuramente il ron, ossia il rum, distillato dalla canna da zucchero. Uscendo dopo cena, invece, potrete provare la cena cubana. Non è la nostra cena, ma uno spuntino salato fatto a notte fonda per placare gli stimoli della fame. Grazie alla nostra ospite e a tutti voi per l'ascolto, ma prima di salutarci inauguriamo una nuova rubrica di Indovina chi viene a cena. Libri migranti, e questa è la rubrica che da questa settimana vi proponiamo. Si tratta di libri il cui tema appunto è quello della migrazione, oppure in qualche maniera collegati al paese e all'ospite di questa sera. Noi stasera parliamo del libro L'estate che conobbi il CE di Luigi Garlando, uscito da poco in libreria per Rizzoli Ragazzi, è dedicato proprio ai ragazzi della scuola media e racconta la vita di Che Guevara vista attraverso gli occhi di un ragazzino cresciuto in una famiglia benestante della Brianza, riflettendo così anche sulla drammatica condizione degli immigrati arrivati in Italia. E siamo veramente al termine, dedichiamo questa puntata a tutti gli immigrati, lavoratori stranieri che hanno contribuito alla realizzazione di Expo, perché appunto è grazie al loro lavoro, al loro contributo che questa manifestazione ha potuto aprire ieri. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. You've got to give a little. That's the glory of